Corpi. I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Dietro le quinte. Dietro le quinte. Labanov sta per Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense ed è un laboratorio che nasce 15 anni fa come un piccolo gruppo di persone dedicate alla ricerca antropologica e odontologica. Poi pian piano si è cresciuto, si è evoluto e ora si occupa di sopralogistica, di cadaveri non identificati, di cadaveri in decomposizione e di identificazione dei viventi. Il lavoro del medico legale è certamente quello della sala anatomica, dei sopralluoghi, delle violenze e dei tribunali. Ma dall'esterno è conosciuta soltanto la parte più scenica e attiva, quella che viene dipinta nelle fiction e nei salotti televisivi. In realtà è molto di più. Tanti medici legali sono coinvolti nelle espianti e si trovano a dover decidere quando termina una vita perché gli organi che l'hanno sostenuta possano far vivere qualcun altro. Altri si impegnano per visitare rifugiati politici al fine di confermare le storie di torture subite in patria o per capire la vera età di bambini dati in adozione. Altri ancora si occupano di bioetica o di portare avanti le cause di lavoratori avvelenati, ad esempio, dall'amianto. Paradossalmente però oggi il mestiere del medico legale è in crisi, anche se sembra essere diventato trendy quanto mai in passato. Le iscrizioni ai vari corsi specialistici sono aumentate e questo è indubbiamente merito della pubblicità fatta a questa professione dalla fiction e da un certo racconto televisivo dei fatti di sangue, ma questo non basta ad evitare che sia un mestiere per certi versi a rischio. Non mi tocchi. Stia calmo. Lasciamo. Non mi tocchi. Adesso devo arrestare l'emorragia, mi capisce? L'ambulanza sta arrivando, può stabilizzarlo? Sì, credo di sì. Tranquillo, signor Myers, l'ambulanza è qui. Tranquillo, capito? Resista. Corpi. Il mondo della medicina legale adesso sta avendo grosse difficoltà. Una difficoltà è proprio per motivi culturali. L'avanzare della scienza e della tecnologia ha fatto sì che ci siano delle aspettative che vanno sconfessate e quindi è necessario nel mondo della medicina legale gestire, ritrovare un equilibrio tra quello che è il potenziale del dato scientifico e la prova. Poi c'è un problema forse più grosso e più difficile da sormontare ed è quello che ha a che fare con il fatto che l'attività medico-legale è troppo limitata rispetto a ciò che dovrebbe essere. Questo probabilmente per motivi di spese di giustizia, per mancanza di fondi e così via. Possiamo immaginare quanto si può perdere da un punto di vista informativo non facendo l'autopsia, ad esempio, a un cadavere che è stato vittima di un incidente, a un soggetto trovato in casa e in avanzato stato di decomposizione. Molto spesso in molte città d'Italia la causa di morte e le modalità vengono chiuse, così si dice in gergo tecnico, all'esame esterno e quindi si possono presentare delle situazioni molto imbarazzanti e molto pericolose per quel che riguarda l'aspetto della giustizia. Arrivò un giorno all'istituto un cadavere dei resti umani, era in avanzatissimo stato di decomposizione ed era stato fatto un'ipotesi sulla causa di morte soltanto in base all'esame esterno. All'autopsia invece e esaminando bene le ossa e facendo le radiografie si scoprì invece che oltre all'accoltellamento c'erano dei segni molto marcati di tortura, la persona era stata picchiata, incatenata in un solaio e lasciata lì per circa una quindicina di giorni e il corpo, ciò che si vedeva da dentro il corpo e quindi all'autopsia parlava molto chiaro e rivelava questi segni di tortura e di maltrattamenti. Un altro caso che rischiò di procurare diversi problemi molto gravi per l'amministrazione della giustizia fu un caso in cui un uomo si diede fuoco in macchina e la moglie dovette identificarlo alla camera mortuaria carbonizzato. È chiaro che è impossibile identificare a vista un cadavere carbonizzato, ma le forze dell'ordine accompagnarono la donna a vedere questo cadavere e tra una cosa e l'altra la donna firmò un verbale di riconoscimento che ovviamente non aveva alcun valore di tipo scientifico. Poi dopo la sepoltura, a seguito di alcune testimonianze, si venne a sapere che forse c'era stata una sostituzione di persona, perché questo signore era coinvolto in diversi malaffari, e il magistrato chiamò molto spaventato dicendo: oddio, non l'abbiamo identificato correttamente, ci siamo fidati degli effetti personali, del fatto che fosse nella sua macchina, cosa facciamo? Per fortuna il medico legale, all'epoca un mio collega più anziano, aveva fatto previdente dei prelievi per poter accertare in un momento successivo l'identità e salvò la situazione. L'altro problema molto grosso della medicina legale è quello della junk science, cioè della scienza spazzatura, cioè di dati poco scientifici portati da esperti o cosiddetti periti piuttosto discutibili nella formazione in aula di tribunale. Luca D'Auria, avvocato penalista. Beh, il tema della junk science è molto interessante perché è attuale, e la sua attualità è data, a mio avviso, dal dubbio crescente, talvolta anche strumentale, verso le scienze forensi. Un dato solo sulla junk science, e cioè il fatto che di junk science si parla negli Stati Uniti quantomeno dal 96, quando uno studioso di scienza che si chiama Milloy ha fondato un sito molto interessante da visitare che si chiama junkscience.com, ed è un sito che racconta esattamente la storia e i perché della junk science negli Stati Uniti. Per junk negli Stati Uniti intendono non solamente il concetto di scienza spazzatura, che può appunto riguardare un risultato spazzatura di una scienza che però non è spazzatura, ma deve intendersi proprio la scienza falsa. In questo sito c'è proprio un decalogo di casi di scienza spazzatura, in cui per esempio il primo è l'utilità per i media di sparare delle notizie fondate su della non scienza per fare per esempio uno scoop, un colpo giornalistico. Il secondo, che è quello forse che uno si immagina anche se non frequenta le aule di tribunale, è rispetto ai casi di danneggiamenti alla persona, per esempio incidenti stradali. Ecco qui che un avvocato disonesto insieme a un perito disonesto possono portare dei risultati all'apparenza scientifici, ma in concreto totalmente privi di questa scientificità. Secondo me da noi non c'è tanto questo rischio, perché c'è una forte eticità tra i consulenti e i periti, cioè tra gli esperti. Secondo me da noi si incappa in una junk science leggera, ma molto pericolosa, che è rispetto alle cosiddette soft science, cioè a quell'utilizzo di scienze che non sono del tutto calibrate e testate secondo principi scientifici appunto certi, ma che vengono utilizzate per forzare determinate ricostruzioni del fatto. E questo non è esattamente la junk science americana, ma è, diciamo, la junk science europea. C'è una ragione di questa differenza. Negli Stati Uniti i sistemi assicurativi garantiscono risarcimenti a tutti i livelli, lo sappiamo quanto sia in voga denunciare il medico, denunciare casi di fumo passivo nelle aziende. Ecco, in tutti questi casi, ed è quello che ci dice questo sito, vengono portate delle tesi scientifiche che in realtà non hanno la forza della scientificità. Come si fa a dimostrare che un soggetto che subisce fumo passivo e poi scopre di avere un tumore, quel tumore è causa di quell'attività del fumatore che lavora con la presunta vittima? Questo da noi c'è poco, la giurisprudenza ha anche tagliato abbastanza le gambe a questi estremismi, e poi specialmente le assicurazioni sono molto più attente. Io ho una teoria, tu un'altra, ma nessuno dei due ha delle prove. Comunque ognuno vuole avere ragione a ogni costo. Ma che diavolo sta dicendo? La scienza contro l'occulto, roba come Mambo Jumbo. Spero che questa sia la scena del crimine. Il mondo delle scienze forensi è un mondo in crescita. Come succede in queste situazioni, c'è fame e necessità di nuove discipline che possono risolvere quesiti giudiziari sempre più specifici e sempre più nuovi. Quindi è vero che ci vuole sempre il medico legale, però ora si sa quanto sia utile e importante il genetista, l'antropologo, l'entomologo, il botanico e così via. E quando c'è questo, quando iniziano a essere necessarie delle nuove figure culturali, è chiaro che c'è chi se ne approfitta e questi spazi a volte vengono riempiti da self-made men. E quindi può capitare di vedere periti o consulenti tecnici, soggetti cosiddetti o che si chiamano antropologi, entomologi, che non hanno alcuna formazione di natura biomedica, ma che si inventano una professione di tipo forense. E quindi si può capire perché a volte esce che due consulenti tecnici, magari uno d'ufficio e uno della difesa, diano delle risposte diametralmente opposte. Mi ricordo in particolare un collega francese che si lamentava di biologi che ricostruivano i volti da crani e che identificavano così le persone proprio perché la ricostruzione del loro volto assomigliava a una determinata persona scomparsa. Chi comunque è esperto di questa particolare tematica medico-legale, cioè quella della ricostruzione facciale, sa benissimo che la ricostruzione facciale serve per innescare un ricordo. Non è assolutamente utilizzabile, ed è sbagliato farlo, per identificare con certezza la persona. Queste situazioni sono sicuramente delle situazioni eclatanti e si capisce subito che c'è qualcosa che non va, ma ci sono altri casi in cui l'errore è molto più subdolo e questo è ovviamente molto più pericoloso per la giustizia. Emorragia e globuli bianchi nella ferita. È stata colpita molte ore prima della morte. C'è della terra nei bronchi e nei polmoni. Era viva quando è stata sepolta sotto quei sassi. Morte per asfissia. Ehi, hai controllato quei reperti? Sì, sì, non c'è niente che ci aiuti, però ho una notizia che troverai interessante. Isabel Haley non è mai esistita. In tutte le professioni c'è chi fa bene il proprio mestiere e chi no. L'inferno dantesco di chi lavora male può dividersi in diversi cerchi. Quello di chi ha peccato per ignoranza, per superficialità, per mancanza di preparazione. Tutti, prima o poi, si macchiano di qualcuna di queste colpe. È normale. Ma per qualcuno diventa un'abitudine ed è immorale e pericoloso per l'amministrazione della giustizia. Non tutti immaginano quale sia il tipo di ricerca in ambito universitario che coinvolge gli ambiti più disparati della medicina legale. Per quello che riguarda l'epoca della morte, si nascondono cadaveri sottoterra, all'interno dei bagagliai di auto o in sacchi di plastica per valutare in tempi le modalità di decomposizione. Oppure si fanno esami microscopici su tessuti traumatizzati per trovare un modo di capire quanto tempo sia passato, ad esempio, tra una coltellata e la morte. Potrebbero essere pochi minuti, come diverse ore. Poi ancora c'è chi si arrovella per capire come i proiettili possano arrecare lesioni tanto diverse tra loro, quante tracce uno strumento contundente può lasciare sulla pelle e come poterle visualizzare per capire di quale materiale fosse fatto, o ancora se le misurazioni del volto possano essere più utili dell'analisi degli organi sessuali per individuare la minore età di una vittima di pedopornografia. Il mondo della medicina legale è molto attivo da un punto di vista della ricerca. Diciamo che ogni caso suggerisce problematiche nuove e da ogni caso quasi sempre nasce un'idea per un progetto di ricerca. In genere pensiamo alle materie più eccellenti come la genetica, la toscicologia, che con i loro laboratori perfetti fanno ottima ricerca, ma esiste proprio una ricerca vera e propria sul morto, sulle ossa e anche sulla problematica dei viventi. E purtroppo a volte ci si scontra con la realtà anche dei pochi mezzi e dei pochi fondi, e ho avuto modo di toccare con mano questa situazione molto frustrante in un caso di un omicidio che vedeva protagonista una donna che era stata trovata quasi scheletrizzata in una discarica. La donna era stata trovata con il cranio quasi a pezzi e bisognava capire se era un omicidio o no. Questo cranio a pezzi poteva essere stato il risultato di lesioni mortali, oppure, visto che si trattava di una discarica, qualcuno, forse nelle prime fasi post-mortali, aveva scaricato, infatti intorno al capo c'erano dei grossi pezzi di ceramica molto pesante, frammentata, e quindi le lesioni avrebbero potuto essere post-morte. Ma allora, in un caso di un cadavere ben conservato, è semplicissimo risolvere questo dilemma. Se la faccia di una persona viene colpita ancora da viva, si formano subito i lividi, e a livello microscopico vedrò i globuli rossi che infarciscono i tessuti, e quindi avrò i segni di un sanguinamento che noi chiamiamo vitale. Se la persona viene colpita già da morta, questo quadro non c'è. Ma su materiale decomposto e sull'osso è molto diversa. Proprio in occasione di questo caso, che era un caso per noi molto importante, decidemmo di iniziare un progetto di ricerca proprio per vedere se i margini di frattura potevano dimostrare da un punto di vista microscopico i segni di sanguinamento, e quindi se si poteva cercare questa certezza di vitalità anche su materiale molto più difficile. Studiamo per circa qualche mese queste reazioni, facciamo delle indagini microscopiche anche molto costose, arrivammo a dei risultati molto incoraggianti, ma a un certo punto la carenza di fondi, la carenza di personale fece sì che non abbiamo più potuto andare avanti, e a questo punto mi trovai a scrivere una consulenza tecnica non potendo dire con certezza che si trattava di un omicidio, e sapendo che se avessimo avuto forse quei soldi in più per andare avanti ancora qualche mese, avremmo forse potuto concludere la consulenza in maniera molto diversa. Ehi, Nigel, mi senti? Il cadavere del signor Rivers arriverà presto all'obitorio. Prendi le impronte e fa tutto il possibile per il... La ricerca in campo medico-legale sicuramente non è una ricerca da Nobel, ma a volte può fare una piccola differenza per quelle che sono diagnosi poi importanti per chiudere dei casi in maniera certa da un punto di vista scientifico. Uno degli ambiti in cui facciamo molta ricerca è che è legato a un problema sociale molto, molto importante, quello del maltrattamento ai bambini che porta alla morte del bambino. E la teoria ci dice che quando ti trovi un lattante morto senza grossi segni, l'autopsia deve essere fatta molto cautamente, bisogna aprire il cadavere davanti e posteriormente, proprio per cercare il più piccolo segno di lesione che può far capire che si tratta di una morte correlata a un maltrattamento. Ci sono dei protocolli internazionali ben precisi, questi protocolli dicono di fare l'autopsia in questo modo e poi di fare delle radiografie in diverse posizioni e poi delle TAC. Noi avevamo il sospetto che questo protocollo, vista la sua performance su casi precedenti, non fosse sufficiente e che la radiologia andava un pochettino rivista, e quindi decidemmo di mettere su un progetto di ricerca proprio per vedere se questo era vero o no. Progetti di ricerca da noi spesso si fanno su animali, visto che non è permesso l'utilizzo di materiale umano, soprattutto per progetti così grossi. In questo caso, come spesso succede, avevamo deciso di lavorare sui maiali. Ovviamente gli animali che utilizziamo per le nostre ricerche sono tutti animali morti per altre cause. In questo caso si trattava di lattonzoli, piccoli maiali nati da poco, appena morti sotto il peso della madre mentre li allattava. Prendemmo questi piccoli lattonzoli e decidemmo di produrre su di loro più lesioni possibili e immaginabili, e quindi di fratturare tutti i distretti ossei e poi di applicare il protocollo internazionale. Quindi con grandissima titubanza cercammo di produrre fratture costali, agli arti e così via, a queste carcasse di maiali molto piccoli che dovevano simulare il corpo di un bambino, e poi facemmo le autopsie con tutti i crismi e sottoponemmo poi i cadaveri al vaglio dei radiologi per le analisi TAC e tutte le analisi radiologiche. Mauro Di Giancamillo, professore di radiologia veterinaria, Università degli Studi di Milano. Gli animali sono arrivati carcasse, sono arrivati a noi per l'esame radiologico e l'esame tomografico per lo studio con l'ATC. L'idea era quello di creare due gruppi, in gruppi ciechi, in modo che si potessero fare degli esami radiografici in un gruppo e gli stessi campioni sottoposti in esame radiografico fossero poi sottoposti a esame con la TAC e fossero letti da due gruppi differenti in modo da non influenzarsi uno con l'altro. L'esame radiografico di per sé è una procedura molto semplice che può essere fatta a qualsiasi livello. Quello tomografico richiede un qualche passaggio un po' più complicato, soprattutto per la gestione di questi pezzi all'interno della macchina. I risultati sono stati abbastanza molto interessanti, anche perché è vero che noi siamo veterinari, quindi questo lavoro è stato fatto per lo studio sul maltrattamento nei bambini, ma abbiamo imparato anche molte cose, nei risultati da poter applicare anche nello studio sul maltrattamento degli animali. È indubbio che queste due tecniche che utilizzano i raggi X si siano rivelate particolarmente utili e complementari l'una all'altra. Siamo riusciti a dimostrare ciò che si vedeva e ciò che non si vedeva. E sull'importanza dell'esame radiografico nello studio delle lesioni sulle costole, e l'esame TAC che incrementa la capacità dell'evidenziazione di un dettaglio, perché è una capacità di risoluzione molto molto più elevata, e altri distretti come la colonna vertebrale e in alcune circostanze le coste stesse. I risultati sono stati che sicuramente come indagine preliminare l'esame radiologico, che era un po' diciamo il nocciolo della questione che si cercava di confutare, e sicuramente è un presidio molto valido, però laddove lui possa rivelarsi negativo, questo non vuol dire che non ci sia l'alterazione. Quindi l'esame tomografico aggiunto, le TAC aggiungono, per la loro natura connaturata di esplorazione del corpo, aggiungono una quantità di informazioni che non potrebbero essere assolutamente svelate con indagini radiologici convenzionali, sostanzialmente, senza dimenticare che oltretutto tutte le informazioni che vengono generate dalle tomografie possono essere poi gestite dai computer, e i software che gestiscono queste immagini consentono di non solo di osservarle così come sono state acquisite, ma come abbiamo fatto in più di una circostanza, consentono di essere rielaborate elettronicamente, consentono di essere, in termine tecnico, di essere ricostruite anche sotto un profilo non soltanto bidimensionale, perché le radiografie hanno due dimensioni, mentre invece la tomografia consente di avere anche la terza dimensione, quindi si riesce a vedere la parte, in questo caso dello scheletro, dell'osso, ma in qualsiasi distretto corporeo venga esaminato, sotto una forma tridimensionale che è molto molto importante sia per il clinico che per il patologo. Grazie a questo piccolo progetto potemmo dare un piccolo contributo alla comunità scientifica internazionale e far cambiare di qualcosina i protocolli per questi casi che sono così, così importanti. Devo dire che il mio primo contatto con la ricerca scientifica fu molto bello, fui molto fortunata. Era moltissimo tempo fa a Sheffield, ai tempi lavoravo su osse antiche. Mi ricordo che il mio primo progetto di ricerca era era finalizzato a vedere se potevo trovare tracce di sangue umano su ossa del Neolitico, quindi di migliaia di anni avanti Cristo. E mi ricordo ancora l'emozione e l'eccitazione al mio primo risultato positivo che poi avevamo pubblicato, e mi ricordo molto bene quella che era la sensazione dell'epoca. Entrando poi però nel mondo della medicina legale, mi resi conto che questa smania di fare ricerche, di trovare delle soluzioni dei problemi, avrebbe dovuto essere applicata a dei problemi di giustizia, comunque dei problemi sociali. Ed ecco che allora sia l'Abanoff che l'istituto dove lavoro abbiamo incominciato a intraprendere progetti di ricerca su vari fronti, sul fronte dello sconosciuto, dell'identificazione dei cadaveri, sui fronti delle lesioni, su come si producono, su come trovare i cadaveri più facilmente quando sono stati occultati, fino ad arrivare a lottare contro la pedopornografia. Le vittime degli omicidi, i cadaveri mai identificati, gli sguardi dei bambini maltrattati sono ciò che dà significato allo studio e alla ricerca. Non basta la soddisfazione di aver risolto un problema tecnico o di aver dato un apporto alla scienza. Alla fine tutto ha un senso profondo soltanto quando riguarda qualcosa di molto più grande e coinvolgente: della curiosità intellettuale. E questo qualcosa si riesce a definire soltanto come la compassione e la condivisione della condizione umana. Fox Crime, canale 114 di Sky, vi ha presentato Corpi. Corpi è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia di Paolo Corleoni, a cura di Guido Scotti.